ghiacci di Raffaella Calandra. Cioè, come è successo qua, succede anche in altri quartieri, in Iraq, oppure, cioè, uccidono bambini appena nati. Là ci sta la guerra. Qui, che è la stessa cosa, è una questione di una guerra pure qua. Prego, prego. Lasciato alle spalle il sole cocente, la luce che brilla sulle rigiole di antichi palazzi, entriamo nell'ultima trincea di Napoli, dove il sangue di un 17enne, ucciso non si sa ancora bene perché, è stato versato sul rione che fu di Totò e De Filippo. È successo in una di quelle notti in cui la paranza dei ragazzini, come l'hanno chiamata i magistrati, terrorizza la città con un motorino sotto al sedere, una pistola in mano e spari quando va bene solo a saracinesche e finestre. Siamo al rione Sanità, è qui e poi al rione Traiano che ora gli equilibri criminali sono saltati e schiere di minorenni si mettono a disposizione di quanti, nel vuoto di vecchi boss arrestati, vogliono imporre la propria legge col rombo di una AK-47. E da qui allora, dal rione Sanità di Napoli ed esattamente da via Santa Maria Antesecola, dove nacque uno dei simboli più belli di Napoli, parte questa puntata di Storiacce. I suoi amici che fanno così, che cosa fanno? A volte scendono a pace, cercano qualcosa di lavorare. Dipende, va a circa, va a sparare, va a rubare, cosa così. Sai, una da circa a qualcuno, basteranno mille, prima di andare mano vanno pure a circa. Il problema non so quello. Fa il meccanico, proprio come Luigi Galletta, e ha la stessa età del suo collega di Forcella ucciso quest'estate perché si era rifiutato di truccare dei motorini. Luigi sapeva a cosa dovevano servire quei mezzi più potenti e non ha voluto prestarsi, come lo sa ora perfettamente Ciro. È sulle due ruote, infatti, che si muove il messaggio di chi cerca di farsi riconoscere come capo della zona e lo fa, trivellando di colpi le saracinesche di quelli a cui chiederanno poi soldi e così confida di imporre il nuovo equilibrio dopo che i precedenti sono saltati. Infatti sono un ragazzo che lavoro. Mio padre è disoccupato, mia madre è disoccupata. E di questi ragazzi che adesso sparano, si sparano tra di loro. Io ho anche di amici così, ma purtroppo madre e padre che non lavorano, i ragazzi hanno bisogno di soldi, perciò io voglio uno contro una, ancora doppio quello che vuole. E va a circa, va a sparare, va a rubare, cosa così. Sai, una da circa a qualcuno, basteranno mille, prima di mano vanno pure a circa. Il problema non so quello, tanto so voglio uno. La città di Napoli si capisce appena capire. Napoli è bellissima, però non ti può dare niente. Questo è. Scendono e si mettono a disposizione, ecco come comincia l'arruolamento dei bambini di paranza, a disposizione dei capiclan, come vedetta, per la droga, ma se gli chiedono di andare ad ammazzare qualcuno, loro ci vanno senza problemi. E colpisce la normalità con cui Ciro e tutti gli altri della zona, che a fatica, devo dire, hanno accettato di parlarmi, includono anche la possibilità di ammazzare qualcuno. Il più delle volte questi non sono figli di famiglie camorriste, questi improvvisati killer, ma giovani con ambizioni da guappi, giovani di questo rione, della Sanità, cioè, o del vicolo della sposa nei quartieri spagnoli, o ancora sono giovani di Secondigliano e scorazzano dove li porta la fatica, per dirla col loro linguaggio. Non sono camorristi, ma si atteggiano a tali, riflette Michele Spina, ora dirigente dell'ufficio prevenzione della questura, dopo la guerra alle piazze di spaccio di Scampia. In questi quartieri si è creata una fibrillazione criminale dovuta ad operazioni di polizia che hanno disarticolato i clan, creando dei vuoti di potere. Nella Sanità il clan ha subito circa 80 arresti, quindi si è svuotato di personaggi di spicco della malavita organizzata, lasciando un vuoto che in questo momento è stato riempito da giovanissimi delinquenti che non hanno lo spessore criminale per gestire gli affari camorristici con modalità tipiche della camorra e che quindi fanno scorribande armate che sono più vicine alla banda armata che non all'organizzazione camorristica. Quando il clan è forte non fa clamori, fa soltanto lucro. Famiglie vicine a quelle dei clan, qual è il profilo di queste scorribande che comunque creano comunque una situazione di allarme anche? I ragazzi che normalmente si sarebbero dedicati a crimini minori, come gli scippi e le rapine, e che invece, in ragione del vuoto di potere, cercano di scalare le gerarchie interne dei gruppi criminali con azioni più eclatanti, non commisurate alla loro esperienza criminale, e che spesso sono frutto di emulazione di eroi negativi che loro vedono nei film o in alcune fiction. Gianni Savastano. Sostanzialmente ragazzi che si atteggiano a camorristi più che esserlo. La nostra storia sembra scritta da un cartone alla TV. Il tema delle fiction non è solo colore, ma questione centrale nel continuo scambio che c'è sempre in questa città tra realtà e finzione. Tanto che, come sentiremo nella seconda parte di Storiacce, solo qui può esserci un poliziotto vero che diventa un criminale nella fiction Gomorra. Così come, poco più avanti da qui, da questa strada, nel celebre cimitero delle Fontanelle o nelle cavità dei Vergini, bastano pochi gradini per passare dal regno dei vivi a quello dei morti, e a volte non capisci più dove finisce l'uno e comincia l'altro, come a volte bastano pochi attimi a decretare la vita e la morte in certi budelli dove pure il sole fa fatica ad entrare. E tanto clamore hanno sollevato le parole ai nostri microfoni del questore di Napoli, Guido Marrino. Secondo lei c'è anche un po' questo refrain televisivo, cinematografico, che in qualche modo peggiora la situazione di certi, in certi ambienti criminali? Io dico probabilmente sì, ma il probabilmente è legato al fatto che io certi programmi non li vedo per principio, perché li trovo offensivi, oltre che scarsamente o per niente rappresentativi di quello che vorrebbero rappresentare. Però è chiaramente un giudizio strettamente... Comprese le fiction, quelle su Gomorra. Come no? Però un giudizio strettamente personale. Offensive. Voi che ne pensate? Il dibattito prosegue sul blog Storiacce o sulla pagina Facebook e su Twitter, hashtag Storiacce. Ma seduto dietro la sua scrivania in via Medina, di molto altro ancora ha parlato con noi Guido Marrino, titolare dell'ordine pubblico in questa città precipitata di nuovo in un disordine violento, anche se ad esempio sono diminuiti di molto gli scippi. Ma c'è un punto su cui il questore è irremovibile: è troppo semplice arrivare a chiedere più presenza dello Stato. È sacrosanto l'appello del cardinale, però arrivare sempre alla conclusione che ormai mi permette di dire banale, che lo Stato è assente, che lo Stato manca, che lo Stato non fa quello che deve fare, francamente io lo trovo non solo offensivo verso lo Stato, ma soprattutto lo trovo fuorviante, lo trovo approssimativo come analisi, come diagnosi e anche come prognosi. Che città è in questo momento Napoli? Sono convinto che questa città meriti rispetto prima ancora che attenzione. Chi è che non la rispetta? Quei quattro parassiti che intendono oltraggiarla con le loro scorribande, ma probabilmente non la rispetta chi sceglie la via più comoda di farsi gli affari suoi quando vede e dice di non aver visto, sente e dice di non aver sentito. Non credo che di poter assimilare ai napoletani per bene questi quattro farabutti che vanno sparando, sono dei falliti e basta, dei parassiti, non me la sento neanche di scomodare la camorra in certi casi, che però chiaramente alimentano questo allarme che è assolutamente legittimo. Il punto è che questi minorenni, che molto poco conservano della loro età, e questo è un problema penale serio su cui torneremo, terrorizzano la città, a cominciare dai loro quartieri, dove sono i più giovani più spesso ad ammettere una situazione quasi accettata invece dai loro genitori. Ci fermavamo con i motorini, avanti e indietro, le nottate così. Si stava di più, si poteva stare di più. Ti metti un po' a cavalletto e ci si facevano i gruppi, si faceva riunione proprio con i ragazzi, comunque proprio del quartiere, sì, si stava bene prima. Cioè, come fai a pensare che la tua figlia sta a camminare e succede questo? Possibile. Ma io sono grande, no? Sono fidanzata, io scendo, ma quando mi ritiro non passo per qua, mi faccio il giro per fuori, per capo di monte andi là e me ne salgo, perché è impossibile, non può passare con un guasco in capo, un coprifuoco. Perché avete paura la sera a passare? Sì, perché quella notte che è morta Jenny, io sono passata alle 4:10 per là e c'era il coprifuoco. Pure che non mi facevano niente, ma penso che paura me la mettono. Io non ho 20 anni, ma sono mosso, riavolo in corpo. Pure che tu spari in aria, già non hai 20 anni a pensare che spari in aria. Non è normale. Cioè qua è normale che ci siano dei ragazzi anche di 20 anni che sparano in aria. Ignoranza, sa ignoranza. C'è l'amore. Ma sono scemi, si va in circo con... Sono i 16 anni che perdono il capo, capito? Quindi casomai sono poco più piccoli di voi, li conoscevi? Certo, di quartiere uno li conosce, visto. Cioè, sono ragazzi che si mettono a disposizione? Sì, sì, sì. Però non lo fanno mai, nemmeno per i soldi, anche, c'è la verità. Lo fanno perché ci piace, sanno fare avrei, sanno sentire superiore. Ignoranza. Sanno fusciare. Sì, è troppo perché è l'ignoranza che ci uccide, troppa ignoranza. Neanche proprio per soldi, dunque. I ragazzi si mettono a disposizione della camorra per sentirsi potenti e prepotenti, come abbiamo sentito. Sanna Fruscià, dice questa ragazza, devono vantarsi. Ecco che allora la questione torna di nuovo anche al linguaggio di Jenny Savastano, protagonista della fiction Gomorra, e torna all'influenza sui più giovani che certi modelli hanno. Ma le cose cambierebbero se non fossero giudicati come minorenni? Da qui ripartiamo nella seconda parte di Storiacce nella guerra di Napoli. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli. Scoprila su pedemontana.com. Vi presenta Storiacce. Alfa 01, centro, sono in strada, direzione sanità, cosa trovo? Dottor Spina, siamo praticamente nel cuore del quartiere Sanità, dove appunto c'è stato l'omicidio del 17enne, quartiere affollatissimo adesso, pieno di gente, pieno di mercato. Noi siamo adesso in una volante, ma la presenza dello Stato in questo quartiere qui, come è accolta? La percentuale di criminali che abita il quartiere ci accoglie male, nel senso che non è felice di vedere la polizia. E lui di magni che casciuno fanno boom bam, e lui di magni che casciuno fanno fissoro, puttana e coca-cola, generazione cresciuta a capo, rinda televisione e pistola, puttana e coca-cola, generazione cresciuta a capo. Se non fossimo a Napoli, anzi nel cuore di Napoli, sembrerebbe questa la recita di un copione, ma non è fiction, è realtà. È realtà che quando entriamo nelle stradine del rione Sanità a bordo di una volante della polizia, un uomo sul ciglio della strada urli dietro: "Ya ti venne tutti quanti", tradotto: "Andate via tutti quanti". Ecco la risposta al mio tentativo di verificare sul campo come fossero accolte le forze dell'ordine in certi quartieri. Ne stavo cominciando a parlare con Michele Spina, dirigente dell'ufficio prevenzione, quando una voce mi ha dato la risposta da un marciapiede affollato di banchi del mercato, di folle e ancor di più di sguardi che seguono a distanza ogni figura estranea. Quando ci sono delitti di camorra è veramente difficile ottenere testimonianze. Nella quasi totalità dei casi noi non abbiamo nessun aiuto, perché le persone che pure magari assistono o sono in grado di riferire elementi si astengono dal farlo per paura. Stiamo attraversando il quartiere della Sanità e ci sono decine, centinaia di persone. Se ad assistere al fatto criminale sono dei delinquenti, non parlano perché contigui all'organizzazione criminale. Se ad assistere il fatto, come a volte accade, sono persone invece non contigue alla camorra, non parlano per paura. Giovanissimi e anche per questo così tanto utilizzati. Lo sanno tutti in fondo perfettamente, i minorenni se la cavano con poco, al di là del fatto che poi rischiano la loro stessa vita. Ma esiste dunque un problema penale intorno a questi ragazzini? Il questore Guido Marino, che prima di arrivare a Napoli è stato in diverse città altrettanto complesse, ora pensa che sì, che forse bisognerebbe anche avere il coraggio di commisurare le pene ai reati, anche per i minorenni. Siamo sicuri che il nostro impianto normativo sia adeguato? Cioè, secondo lei, visto quello che succede, ad esempio, aumentare le pene anche per dei minorenni? Più che aumentarle, io mi accontenterei che fossero effettive. Chi delinque, minorenne o meno che sia, deve avere anche la consapevolezza che se commette un reato deve rischiare qualche cosa di direttamente proporzionale a quel reato. perché se sono minorenni godono una serie di benefici, ma se sono minorenni e che proprio per questo commettono una serie di reati, secondo lei bisogna avere anche il coraggio di aumentarne un po' le conseguenze, no, per questi minorenni? Ma non c'è dubbio. Bene, provare a vedere se questi benefici sono, costituiscono una sorta di automatismo. È assolutamente vero che il minorenne va assolto in quanto tale, ed è quello che succede di fatto. Allora, c'è questa recrudescenza che porta ad una situazione che crea allarme nella popolazione, però dall'altra parte, numeri alla mano, i reati sono in calo, anche reati che spesso sono stati storicamente un po' associati alla città di Napoli, a cominciare da quelli che toccano i turisti, tipo i scippi, così. Una realtà con luci ed ombre, come è normale per una metropoli come quella napoletana. Mi rendo anche conto che i dati in calo, il dato statistico col segno più, ormai consolidato direi, non basta tranquillizzare la signora che è stata scippata l'altro ieri. Però intanto questo non bisognerebbe dimenticarlo come dato riconducibile ad un impegno incessante che c'è a prescindere e a dispetto di chi si ostina a dire che lo Stato è assente o che lo Stato non è sufficientemente presente. Pensi a me quando non vorresti, se fossi qui cosa mi faresti? Per le strade del rione Sanità, quello che il presidente della municipalità ha definito la nostra Baghdad, ora ci sono almeno 4 volanti. La presenza dello Stato di sicuro si percepisce di più ora dopo il delitto di Gennaro Cesarano, ma forse, va detto, quella delle divise, che è la risposta più semplice, non necessariamente è anche la più efficace in zone come questo rione, dove vivono 32.000 persone con un tasso di disoccupazione giovanile al 60%, nessun asilo e con un disincanto che sta di segnazione da una parte e di ostinata rimozione dall'altra, per cui nella pizzeria Concettina e Tre Santi si arriva a dire che in fondo qui si sta benissimo, un refrain ripetuto a dire il vero in molte parti della città. In questo momento si sta vivendo molto bene. Tutti quanti parlano di questo quartiere per il terribile omicidio che c'è stato. Ma sono quartieri popolari, può succedere dappertutto, non è solo nel quartiere Sanità, dappertutto a Napoli. Io personalmente ho detto, sono da 35 anni qui dentro, solo io, ho sempre vissuto così, il bene e il male. Ognuno ha la loro vita. La loro vita, come a me mi fa piacere di lavorare per 30-40 euro al giorno, e a loro non ci fa piacere di lavorare per 30-40 euro al giorno. Va bene quella vita? No. Punto. Io alle 7 di sera sto a casa. Se io scelgo la vita di fare questo mestiere, faccio questo mestiere qua. Non giudico quello che fanno e quello. La colpa è sempre della politica. Allora che gli dite ai vostri figli per cercare di stare più tranquilli voi? Ne a scendere. Vieni presto. Però il poliziotto non è che il bravo ragazzo lo vuole picchiare. E io malamente saggi di spalla può far passare. Adesso ci dovrebbe stare più polizia o ce ne sta abbastanza? No, signor, se non ci sta stiamo meglio. Se non ci sta, stiamo meglio. Tieni la me, tieni la manda, chi è buono e chi è malamanda. E allora si capisce ancora di più perché qualcuno urlava "Ya ti venni" alla polizia, come ha sentito più volte anche Pasquale Russo, poliziotto vero e criminale per finta nella fiction Gomorra. Impari a ragionare in un altro modo, o forse riesci a ragionare in quel modo perché stai con i criminali quasi tutto il giorno quando lavori, e quindi è straniante, è quando interpreti questi personaggi e ti cali nel loro ruolo, devi avere bene presente che cos'è la filosofia di queste persone. Fammi degli esempi concreti presi dalla vita vera, diciamo. Quando passi in macchina, sei in divisa, sei con l'auto della polizia, ti guardano, ti lanciano questi sguardi di sfida, come per dire tu prova, vienimi a controllare, tanto io non ho paura. Belli in fila lì, tutti impostati, che sia il bar o la sala giochi o a fianco alle loro macchine, che spesso non sono le utilitarie che magari abbiamo noi perché viviamo del nostro stipendio, ma già a 20 anni ha una macchina che ti costa 40, 50, 60 mila euro, e se tu gliela togli perché magari ci sono delle irregolarità, loro ti rispondono tanto io domani me la ricompro, ed è così. Le ragioni più profonde della ciclica violenza di Napoli affondano anche nelle sue viscere più impenetrabili, come nella sua storia e nel suo mito, ancora una volta in una reciproca mescolanza. Linea allora alle mitiche storiacce di Giorgio Geranò, professore all'Università di Trento e autore da ultimo degli Eroi della Guerra di Troia per Sonzogno. Mitiche storiacce. Sarà perché Napoli è una città greca? Sarà perché il mito greco è tutto fatto di storiacce, di crimini e di sangue, di violenza improvvisa ma anche premeditata, insomma i motivi possono essere vari. Sta di fatto che spesso scrittori e registi hanno usato il linguaggio, le storie del mito greco per raccontare i lati oscuri di Napoli, i suoi bassi fondi, il suo degrado, la sua violenza. Pensate a Francesco Mastriani, oggi nessuno se lo ricorda, ma nell'Ottocento era un famoso autore di romanzi d'appendice come La cieca di Sorrento o I misteri di Napoli, e spesso raccontava il mondo degli emarginati, della malavita. Mastriani legge un fatto di cronaca: un'orfana napoletana cresciuta nella miseria ha una figlia da un uomo, ma quando quest'uomo la lascia perché ha trovato una ragazza di buona famiglia, lei si vendica uccidendo la loro figlia. A Mastriani viene subito in mente il mito greco, il mito dell'infanticida Medea, e così scrive un dramma che si intitola La Medea di Porta Medina, che era un'antica porta napoletana demolita poi nell'Ottocento. Se vi capita di trovarlo, da questa storia hanno anche fatto un film con Giuliana De Sio e Christian De Sica, giovanissimi. Ma anche una scrittrice di oggi, Valeria Parrella, ha trasformato Agamennone, il comandante dei Greci alla guerra di Troia, il re tronfio e arrogante, in un boss della camorra. E non per trasformare i camorristi in eroi, ma per indagare il lato oscuro, arcaico e profondo della violenza che troppo spesso purtroppo scuote Napoli. In chiusura, come sempre, lo spazio della vostra segnalazione. Ci avete scritto, a dire il vero, grazie, da molte parti d'Italia con storie diverse, ma permettetemi questa settimana e poi a conclusione di una puntata dedicata a Napoli e alla camorra di ricordare Giancarlo Siani, il giovane giornalista del Mattino ammazzato esattamente 30 anni fa. Lui nelle sue cronache li chiamava i muschilli, quei giovani killer al servizio dei boss di cui ora si parla tanto. La storia del suo delitto, della morte, dell'abusivo, per dirla col titolo di un famoso libro, ora può essere anche ripercorsa direttamente da voi dagli atti giudiziari dei processi. Sono infatti a disposizione di tutti online sul sito della Fondazione Trame. Ripeto, sul sito della Fondazione Trame. Se però avete anche voi storie da segnalarci, piccole o grandi vicende su cui volete portare la nostra attenzione, questo spazio, ricordate, è riservato a voi. Scrivetemi una mail oppure mi trovate sul blog Storiacce o sulla pagina Facebook di Storiacce. Su Twitter invece la account Raf Calandra. Per riascoltare questa, come tutte le altre puntate, il sito è radio24.it. Ciao a tutti, a presto.